L'associazione Armonie è un'associazione di donne che è nata nel 1994, opera soprattutto nella zona del quartiere Savena, ma anche in tutta la città di Bologna e provincia. Come dicevo, è un'associazione di donne che ci rivolgiamo a donne di tutte le età e provenienze e lavoriamo soprattutto nell'ambito della prevenzione alla violenza di genere, e la salute, il benessere psicofisico delle donne, contrasto alla violenza e nella volontà di diffondere una cultura di diritti di socialità attraverso delle esperienze reali, concrete, che nell'ultimo anno stiamo cercando con tutte le forze di mantenerne i valori, insomma, di questa esperienza. E soprattutto per questa occasione si parla di violenza e di prevenzione, perché come sappiamo, sapete, l'emergenza sanitaria ha posto noi donne in una condizione ancora una volta di oltre il disagio, direi, oltre il disagio. Sappiamo che ogni 9 secondi una donna dentro le mura domestiche viene picchiata. Quando dico picchiata, escludo tutte le altre violenze, quindi psicologica, economica, assistita. Noi donne di Armonie, attraverso il nostro lavoro, cerchiamo ancora una volta, siamo ancora convinte che una rete, un sostegno sia ancora più necessario oggi, in questo momento. Proprio per sostenere e assistere le donne avete attivato un servizio telefonico che si chiama Voci di Donna. Come funziona? Allora, Voci di Donna in realtà è, grazie di parlarne, è attiva dal 2003, quindi è un'esperienza che sono anni che portiamo avanti. Funziona semplicemente con un servizio di donne che si rivolgono a donne, per cui 2 giorni alla settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle 16 alle 19, offriamo un primo ascolto alle donne che appunto si rivolgono a noi per in situazioni di disagio, di solitudine, di violenza, in salute, in discussione. Attualmente funziona soprattutto appunto il telefono, perché purtroppo queste sono le condizioni nelle quali ci troviamo a lavorare. Non appena sarà possibile, vi aspettiamo le donne nella nostra sede in via Emilia Levante al 138, il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19. Attraverso Voci di Donne offriamo una prima consulenza, prima con noi, le soci attiviste di Armonie, e poi cerchiamo di comprendere quello che è il bisogno della donna che si rivolge al servizio. Possiamo offriamo una prima consulenza attraverso delle professioniste, un'avvocata, una ginecologa, una psicologa, un omeopata e, grande novità di quest'anno, anche una nutrizionista. Questo è un po' il percorso. Non siamo un centro antiviolenza e quando è necessario noi collaboriamo in rete con appunto la Casa delle Donne di Bologna. Vogliamo ricordare qual è il numero? Certo, abbiamo un numero di telefono dedicato, Voci di Donne, 375-6619-400. Rispondiamo il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19, oppure è possibile anche scrivere a vocididonne@armoniedonnebologna.it. Avete anche attivato una chiamata alle artiste, un concorso dedicato proprio alle artiste. In che cosa consiste? Come si può partecipare per chi volesse? Esatto, quest'anno appunto abbiamo deciso di rilanciare il servizio Voci di Donne e il messaggio che intendiamo comunicare è: non sei sola. Abbiamo appunto questa chiamata per artiste, call for artists, come si dice. In occasione dell'8 marzo è stata lanciata la call e ci sarà la possibilità di partecipare fino a 2 mesi, quindi fino all'8 maggio. Sarà possibile inviare la proposta. Che cosa chiediamo? Chiediamo ad artiste grafiche, fotografe, illustratrici di cercare di declinare appunto il messaggio non sei sola attraverso una loro opera, che una, massimo 3 opere possibilmente inedite, che quindi non abbiano mai visto, non siano ancora state utilizzate, e che donino al servizio Voci di Donne Non Sei Sola, che comprendano dunque il messaggio e la necessità, sorellanza. questa volontà, in questo servizio. E ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare le opere che ci stanno arrivando ogni giorno, sono stupende, ed è ancora più stupendo che ci siano appunto delle donne che hanno colto l'urgenza e la necessità di questo mettersi insieme, unite, diverse e libere per contrastare la violenza. Saranno in formato cartolina, la classica cartolina, che poi una volta che verrà stabilito quale sarà la cartolina da una giuria, verrà stabilita qual è la cartolina vincitrice, tra virgolette, passatemi questo termine, allora si provvederà alla stampa e alla diffusione nei luoghi strategici delle donne, pertanto consultori, la sede dei quartieri, medici di base, determinate attività commerciali, ovviamente la sede di Armonie, e cercheremo di diffonderlo il più possibile, e l'immagine che verrà scelta sarà appunto la nuova immagine di Voci di Donne Non Sei Sola. Perfetto Fulvia, io ti ringrazio per averci raccontato Armonie. Grazie, ringrazio voi per averci dato questa opportunità, tantissimo grazie, a nome di tutta l'associazione, e ricordatevi, Non Sei Sola, Voci di Donne.